La vita con me si masturba, la vita con me è assurda. Io vivo con te in questa giungla, scrivo anche se mi fa male l'unghia. Quando bevo una birra divento un bambino, io parli scrissi a Silvia dopo il pomino. Tu fai l'incazzato e dici di far casino, io punto sul rosso e vinco al casino. Ti hanno chiamato anche per un provino, ma ti hanno cacciato perché sei un cretino. Mi hanno chiamato per un provino, sì, scoppiato ubriaco, hanno fatto l'inchino. Ora sono il primo ad andarti moda, viva chi spaccia e viva la droga. Ora Sabrina entra dentro il locale, uccide la tua tipa e poi inizia a bestemmiare. Voglio fare una vita da come a Panarea, prendo matite all'Ikea, spendo calze e Pompea. Non strappa, non stressa, non stringe, regalo campanelle, andate a male al TG5. Io non sono qui, ho la mente in tilt. È normale, son così, parlo di sesso, droghe e alcol. Di quello che non faccio, ma il fatto è che sto fatto. Come pretendi che ti parli dei fatti nel mondo? Io sono il controsenso e vivo dentro un sogno. Odio chi mi dice di andare a lavorare per pochi soldi al mese e una pizza da mangiare. Preferisco fare quello che mi viene meglio, fumare e peggiorare lo stato del cervello. Sono stato condannato da chi si crede il capo, ma capo non lo è per via del capo troppo alzato. Ognuno è sottile, non seguite mai la maglia. Amo i miei fan, l'hip hop e la fratellanza. Io non sono qui, ho la mente in tilt. Non sono qui.